Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold signs. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a, such a good friend to me. Know that I love you so high. I made you, hallelujah. I got faith. Gentiloni preme su Renzi, il premier chiede un cambio di linea sulle alleanze, con centro e sinistra si vince, il Corriere della Sera. Il caso Appendino fa tremare i 5 Stelle e pace armata nel PD Repubblica. Ma Repubblica c'è anche Soraya, la nemica dei catalani, prende il potere a Barcellona, inviata da Rajoy. Puigdemont dice resistenza passiva. E c'è anche Racca, diario di un italiano, così abbiamo cacciato l'ISIS e così la Repubblica l'abbiamo terminata. A Torino ci si occupa del caso Appendino, del caso Giordano. Torino, nuova crepa in casa Movimento 5 Stelle. Poi ancora nel Partito Democratico ci prova Minniti, ora Unità. Minniti che vuol portare avanti lo Ius Soli, ha promesso che verrà approvato lo Ius Soli entro la legislatura. Questo sulla Stampa. La Stampa che però c'ha anche la notiziona a centro pagina, la foto, il CIO sdogana. Direi che sdogana. Oh, a meno che non sdogani anche la pronuncia errata. Sdogana, direi che... I videogiochi sono uno sport, e questa già potrebbe essere una, non so se una buona notizia, perché in realtà è una buona notizia per chi ama i videogiochi, per chi li pratica, ma come dice giustamente il giornalista della Stampa Giulio Zonca, adesso sarà molto più complicato dire ai figli: alzati dalla PlayStation, smettila di poltrire in poltrona e datti da fare, perché se il CIO dice che si tratta di uno sport olimpico, addio, però è finita, certo. I genitori. Ah, questa notizia la danno tutti i giornali e quasi tutti in prima pagina, anche se la Stampa ci mette tanto di foto. Comunque, anche se uno andava a giocare a calcetto, allora i genitori non potevano dire: ah, non posso più dire a mio figlio di andare a giocare a calcetto. Quindi non mi sembra una grande motivazione per dire che non sono uno sport. Anche perché l'Università di Colonia, e la chiudiamo qua, ha fatto sapere che i professionisti del videogioco usano 400 movimenti al minuto, dai 160 ai 180 battiti cardiaci sempre al minuto, l'equivalente di un maratoneta. Per reggere le sollecitazioni della schiena e del collo, i più bravi replicano gli stessi allenamenti dei piloti di Formula 1. Esatto, infatti come dicevamo prima, mentre leggevamo i giornali, abbiamo la sensazione che comunque il tiro con l'arco non è che sia particolarmente più impegnativo di fare un partita FIFA. Esatto, per 4 ore. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Buona domenica, voglio soprattutto salutare quelli che hanno fatto il turno di notte oggi, che hanno lavorato un'ora in più. E quindi ricordiamocelo, che uno magari non lo sa, dice: ma come mai oggi era così di cattivo umore? Beh, perché ha fatto un'ora in più. È perché questa non è una rassegna stampa normale, ricordatevelo, questa è una caccia alle buone notizie. Hai detto l'ora solare, allora io mi sono segnato questa. Sei segnato di spostare l'ora, immagino. Sì, tra l'altro stanotte il mio cellulare stranamente non si era aggiornato, io continuavo a guardare perché avevo l'ansia. Si aggiornerà da solo? Che è il grande dramma. Come quando... i vecchi, no? Perché esatto, i ragazzi lo sanno che... esatto. Però oggi il mio cellulare non si aggiorna, cioè la sveglia sì, ha suonato giusto, ma l'orario era sempre quello vecchio, quindi ero nel terrore. Io panico. Preferisco quando non si aggiornano da sole, a dire la verità, perché sennò hai sempre il dubbio. Invece il vecchio orologio in cucina, sì, quello che devi caricare a mano, quello lì dici: di sicuro questa ora è quella giusta, nel senso che non c'è ancora l'ora solare, calcolo e capisco, certo, che ore sono. Con i telefonini e i televisori io non so mai se sono nel giusto o nello sbagliato. Sono arrivato in radio alle 3. Se, rischi di farlo due volte, lo fai il cellulare e poi lo fai anche tu. Esatto. Comunque sappiate, come sempre in queste situazioni, situazioni, ci sono degli studi anche qua, perché ci disturba il cambio dell'ora, passando a quella solare si recupera sonno, scrive il Corriere della Sera, a onor del vero a pagina 27, però c'è la pagina, ma uno studio dice siamo più aggressivi. L'ultima notizia infatti è uno studio del Journal of Experimental Criminology, spero di aver pronunciato correttamente, che dice che aumentano le aggressioni del 3% in corrispondenza col passaggio all'ora solare. Ma quella notte lì proprio? Ma perché c'è un'ora in più? C'è un'ora in più e quindi se tu calcoli le aggressioni c'è un'ora in più di aggressioni. Attenzione, perché in effetti 2 anni fa un'altra rivista scientifica aveva calcolato un'impennata del 27% delle rapine messe a segno intorno al tramonto. Ma certo, perché arrivava prima il buio, no? Esatto, vabbè, dai. E soprattutto magari se hai l'allarme che non si è aggiornata col nuovo orario, ci sono quei 5 minuti di buco in cui è perfetto fare una rapina. Allora, un'altra notizia che non sappiamo se dirvi sia una buona notizia o no, riguarda le pensioni. Ce l'ha in prima pagina il Corriere. In realtà è un piano per esentare 11 categorie dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni. Sapete tutti benissimo di cosa stiamo parlando. C'è stata molta discussione perché i vicini alla pensione sono terrorizzati, certo, da questi 6 mesi in più. Chi la pensione non sa neanche dove sta di casa al momento, aspetta ad essere terrorizzato, ma lo sarà fra qualche anno, sì, giusto? Vorrebbe ricevere notizie comunque sulla sua pensione. E quindi, in ogni caso, quali sono le categorie che il governo sta studiando di escludere da questo aumento? Giustamente, perché sono persone che faticano più di te, Carlo. Certamente, ma questo anche... non c'è dubbio. Sono queste. Scuole materne, asili nido, aspetta, le voglio leggere tutte perché magari qualcuno che ci sta vediamo ascoltando. Vediamo se ci sono, se ci caschiamo dentro anche noi, non so. Magari. I radiofonici della domenica. Infermieri che fanno i turni di notte, però gli infermieri, certo. Non chi fa i turni all'alba alla radio. Macchinisti, camionisti, gruisti, muratori, facchini, badanti di persone non autosufficienti, oltre agli addetti alle pulizie, alla raccolta dei rifiuti e alla concia delle pelli. E l'altra notizia che ci chiediamo se sia una buona notizia o meno è l'ipotesi di allungare la prescrizione per i pagamenti delle tasse, che di solito sono, sì, era fissato a 5 anni, invece la si vorrebbe portare a 10. Diciamo, dipende da che parte state, se è una buona o una cattiva notizia. E soprattutto, diciamo, per tutti è il fatto che bisogna tenere i documenti, invece che per 5 anni sicuramente tocca tenerli per 10. Quindi io, che sono un accumulatore compulsivo, sono contento perché posso sempre dire a mia mamma: no, quegli scatoloni lì sono le cose delle tasse. Oggi siamo molto ipotetici sulle buone notizie. Il titolo del Messaggero in questo caso era: cartelle esattoriali, la prescrizione si allunga a 10 anni, ma è una proposta del Ministero del Tesoro. 800 24 00 24. Tra poco parleremo di caccia, perché a più di un mese dall'apertura della stagione della caccia si contano nuovamente vittime e feriti, ma anche diverse, ma tra gli umani, vittime, vorremmo ricordare, tra gli umani oltre che tra gli animali. Allora, è mai possibile morire per uno sport? È possibile? Però purtroppo tra abolizionisti e cacciatori non c'è dialogo, mancano proposte. Una l'ha fatta un consigliere regionale ligure, che ha proposto di andare a funghi con la pettorina fosforescente per non essere presi di mira, però cioè per essere presi meglio di per mira. Essere presi meglio di... Un'altra la fa un rappresentante del WWF Campania, che se sentiremo aumentare i controlli e tornare alle guardie venatorie, che sono scappate anche lì tra i tagli di tutti i tipi, province, comune e regioni. Non ci sono più le guardie venatorie in giro sul territorio italiano. Però, cari amici all'ascolto, se siete cacciatori, noi vi chiediamo quali sono le ragioni, visto che si rischia addirittura la vita. Carne ne abbiamo in abbondanza, passatempi più sicuri anche, che vi spingono ad andare a caccia. Giorno in cui tra l'altro i videogiochi sono diventati uno sport, quindi uno può stare a casa e allenarsi ad ammazzare un sacco di leoni piccolini, sempre dei videogiochi. Chiamateci all'800 24 00 24 anche se avete idee su come riformare la caccia per renderla più sicura. Si può fare. Allora, abbiamo anche sui giornali di oggi altri titoli, vediamo. Per esempio, il Fatto Quotidiano: no del Colle alla legge sulle mine. Ne avevamo accennato in qualche modo anche ieri perché qui c'è una notizia che era una buona notizia, ma poi scopriamo che quando c'è di mezzo la politica, il Parlamento, l'approvazione di leggi, c'è sempre qualche tranello. Si parla di una legge che doveva sanzionare ogni azienda che direttamente o indirettamente finanzi la produzione, la costruzione, la diffusione delle mine antiuomo messe al bando ormai già tanti anni fa a livello internazionale. Anche l'Italia ha firmato questo bando, ma c'erano continue, diciamo, giri di finanza attorno alle mine antiuomo. Ebbene, la legge è stata approvata, ma Mattarella l'ha rispedita al Parlamento. Allora, non che Mattarella sia un alleato dei produttori di mine o dei venditori di mine, sembra che all'interno di questa legge ci fosse una sorta di errore che prevedeva, l'errore era questo, solo multe e non sanzioni penali per chi fa le mine, mentre invece i trattati internazionali prevedono sanzioni penali, quindi questa sarebbe stata una norma che poteva decadere subito. Ecco. Beh, anche perché se fai le mine, come ben sappiamo, guadagni tantissimi soldi e semplicemente se no la metti a costo la multa, dici perfetto, bisogna pagare la multa, la metto a costo e le mine costeranno un po' di più, quindi servono delle pene di un altro tipo. Ci abbiamo anche un titolo che può essere un po' un super titolo, va? Cioè può essere, secondo me può essere. Onestà trallalla, 5 stelle cadenti, ma soprattutto onestà trallalla non è il male. Titolo il giornale. Titolo del giornale, divertente. Sul caso Torino è anche perché se no vince sempre il manifesto, che invece non si è sforzato moltissimo questo giro oggi con sottufficiale Gentiloni, un gioco di parole, diciamo, proprio dicendo è domenica, cerchiamo un gioco di parole che funzioni. Era un po' forzato, però ci poteva stare. Allora, visto che questa non è una rassegna stampa normale, ma cerchiamo buone notizie, una ve ne avevamo parlato qualche tempo fa, cioè è per quello che veniamo alle 3, perché per trovare delle buone notizie, bravo, sui giornali di oggi effettivamente 4 ore non bastano. Tocca lavorare come i turnisti delle gru. Allora, la doppia vita degli edicolanti, dal ritiro pacchi ai concierge di zona, ecco i trucchi dei nuovi giornalai per attirare clienti. Il futuro è ancora la carta, dicono loro, ma al di là di questo sapete che in Italia sono chiuse dal 2001 al 2016 ben 13.000 edicole che non hanno riaperto. Adesso l'ultima iniziativa per ridare vita alle edicole è questa. Da settembre a Milano 19 edicolanti hanno avviato una collaborazione con la app che si chiama Eugenio, la startup che offre servizi a domicilio di qualsiasi tipo, dall'elettricista alla babysitter, da tutto, insomma. Però mancava un punto di raccolta d'appoggio dove partire e lo hanno trovato. È un bel progetto, in realtà, perché la vera forza delle edicole ormai direi più che la carta, che invece è, se vogliamo, il problema, è il fatto di essere capillarmente ben disposte su tutto il territorio. Quindi il fatto di sostituirsi in qualche modo alle portinerie, che invece per questioni economiche un sacco di condomini decidono di non avere il portinaio, potrebbe essere la soluzione. Mi sembra una soluzione valida più che un trucco. Allora, amici di Torino, che oggi avete la maratona, il comune vi invita a correre piano, a correre la come? È perché c'è lo smog, c'è molto smog a Torino, quindi... E quindi vince chi ci mette più tempo a Torino? Non lo so. C'è chi ci mette 14 ore, dice bravissimo, ha respirato pochissimo, ci ha messo 14 ore. E poi c'è una notizia che è sempre sulla stampa di oggi, che mi sta a cuore, perché riguarda Bossi e Salvini. Cioè, pensa, qualche anno fa avrebbero avuto titoli sui giornali a centropagina, interviste, cose fiume. Adesso è un trafiletto minuscolo, piccolo, la mestizia proprio, no? Ma cos'è successo? Il veto di Bossi a Salvini, il nome Lega Nord non si tocca, perché sai che Salvini ha proposto tolto Nord. Togliere Nord, tutti d'accordo, naturalmente. Zaia, Maroni, non gliene frega più niente del Nord, gliene frega di conquistare l'Italia. Certo, hanno capito che Bossi, Nord invece... è meno di Nord, centro, più Sud, diciamo. E invece Bossi minaccia tutti e dice, lui pensa di voler prendere più voti se toglie la parola Nord, ma non è così, invita tutti ad andare avanti sulla parola Nord, perché altrimenti sarebbe un imbroglio. Certo, invece una buona notizia l'ho scovata su Avvenire, che dice che per il crowdfunding è stato un 2017 da record, anzi è stato, lo è tuttora, perché il crowdfunding, quindi la raccolta fondi dal basso, e stiamo parlando solamente del equity siti crowdfunding, perché poi c'è anche gente che sociali. L'anno scorso sono stati raccolti 4,3 milioni di euro, quest'anno siamo già a 9. Ma che meraviglia, noi avevamo una rubrica fino alla scorsa stagione. Siamo stati noi forse, siamo colpa nostra. Noi. Abbiamo rilanciato il crowdfunding nel mondo. Però siccome vi vogliamo dire le migliori 5 buone notizie, è arrivato il momento di Si Può 5. Le migliori 5 notizie della settimana sono queste. Partiamo da una notizia piccolissima che riguarda la prima sperimentazione in Italia di una consegna aerea con il drone, perché il tema delle consegne è sempre più all'ordine del giorno, però c'è troppo traffico, troppo smog nelle città per tutti questi camioncini che girano. Viva i droni! È successo a Borgo Manero grazie alla sperimentazione del sito di e-commerce Cesaru, credo che si pronunci così. Penso di sì, e comunque come dici tu sembra una piccola notizia, ma molto probabilmente è una notizia della quale ci dovremmo occupare tantissimo, perché ormai funziona tutto con la vendita online e poi c'è il problema delle consegne. Invece al quarto posto andiamo con una cosa grandissima: le balene. Il Golfo di Napoli è il paradiso delle balene. No. Ci sono buone notizie per appunto il capodoglio brunone, che era quello che nel 2004, che dal 2004 torna sempre nelle acque di Ischia, perché dopo 26 anni l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, la sigla IUCN, ha ufficialmente riconosciuto la zona come Important Marine Mammal Area, ovvero un'area di importanza per i mammiferi marini. Chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto? Terzo posto, siamo sul podio, e questa è una idea che viene dall'Olanda per eliminare le cicche di mozziconi per terra. Ci pensano i corvi, stanno sperimentando, sono due start-upper che si chiamano, ve li voglio dire i nomi, sono Ruben van der Vleuten e Bob Spikeman, che stanno sperimentando questa cosa qua. Hanno addestrato i piccioni a una ricompensa in cibo. Ma è straordinario. Ogni volta che vanno a prendere una cicca e la mettono nella scatola. I corvi diventeranno obesi forse, ma è un'idea straordinaria, e soprattutto complimenti a loro che hanno trovato dei corvi fumatori, perché se non hai un corvo fumatore è difficile che ti recuperi la cicchetta. Al secondo posto invece Pannolini, a Treviso nasce il primo impianto al mondo che li ricicla al 100%. Stiamo parlando dei pannolini, che sembra una cosa carina, e beh, invece sono un enorme problema, perché i pannolini sono nemici giurati dell'ecologia, perché ci mettono a degradarsi tantissimo. 500 anni, tantissimo. E siccome si calcola che nei primi 3 anni di vita solo un bimbo, un essere umano, diciamo, ne consumi oltre 4.500, c'è un grosso problema. Ma l'hanno risolto a Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso, dove è stato presentato il primo impianto su scala industriale al mondo in grado di riciclare tutto al 100% i prodotti assorbenti usati. E lo fanno con Contarina, che conosciamo bene, perché sono i più bravi forse al mondo nel fare la raccolta dei rifiuti. In Italia siamo bravissimi a farlo, Ercolini sarebbe orgoglioso di noi. Il problema è che mi immagino questi camion giganteschi che da tutto il mondo portano tutta esattamente quella roba che hai detto tu, ma solo di bambini e di bambine piccolissimi. E allora al primo posto la notizia la diamo sulla fiducia ancora una volta, perché il governo ha messo a punto un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra, che è stato depositato in commissione bilancio al Senato, ho letto tutto, che è quello che dovrebbe dire stop alla fatturazione a 28 giorni, cioè le bollette ogni 28 giorni anziché ogni mese. L'invenzione del tredicesimo mese, dopo che ti hanno venduto un abbonamento mensile, è proprio un po' una porcata, con cui un sacco di compagnie ci stanno fregando dei bei soldini. Governo, tieni duro con questo emendamento, non toglietelo, mi raccomando. Ciao Alessio, ciao Carlo, sono Massimo, sono nel 2038, sono molto felice perché ho appena prenotato la mia settimana bianca. È una settimana bianca che non è come quella vostra nel 2017, credo vi troviate, ma è una settimana sulla Luna. Ho appena prenotato il mio viaggio, partirò la settimana prossima. Pensate che Google ha già mappato tutta la superficie lunare, quindi potrò muovermi in autonomia fino ad arrivare al resort che Bezos, il grande grande imprenditore di Amazon ha costruito l'anno scorso. Quindi arriverò, atterrerò nella stazione lunare e poi camminerò da solo in solitaria fino ad arrivare al resort. Il giorno dopo ci sarà un Pathfinder che mi porterà addirittura a vedere i giacimenti dell'elio 3, l'isotopo che viene utilizzato dai cinesi qua nel 2000, alla fine del decennio, negli anni 30, per come fonte energetica da utilizzare anche sulla Terra. Insomma, grandi novità, vi chiamerò nei prossimi giorni per altre notizie del futuro. Ciao! Stavolta Temporelli, senti com'era tutto, era anche compreso. Era serio. Ma preoccupato, guarda. Comunque la notizia aveva la luna storta. Ci ha confermato quello che è stato detto pochi giorni fa dall'Agenzia Spaziale Europea, che entro 25 anni ci sarà una colonia di 100 persone sulla Luna. E Massimo era tra quelli, io lo sapevo che sarebbe stato in prima fila. Possiamo essere anche noi forse fra quelli, perché visto che continuano a spostare l'età pensionabile, probabilmente noi fra 25 anni saremo ancora perfettamente nell'età da lavoro. 800 24 00 24, cerchiamo anche un personaggio della settimana, ascoltatori naturalmente, e il primo che indovina si porta a casa i biglietti della mostra Egitto allo splendido Mudek di Milano. L'indizio, aguzzate bene le vostre orecchie, è questo: è orgoglioso questo personaggio. Cercate una notizia degli ultimi 7 giorni e dell'orgoglio in giro qua e là, e tutto chiamate. L'orgoglio della settimana. Tra poco parliamo di caccia. Si può fare. Far frutta la natura di prima mano. Vi presento. Si può fare. Do up a do on su per do be do. Well, it's been such a long day. I'm kinda tired, bring a soothing arms my way. My back is aching and my body so. Allora, ad ogni stagione di caccia, ad ogni riapertura della stagione di caccia, riparte il dibattito tra cacciatori e animalisti, tra chi vorrebbe abolire la caccia, chi invece... Cacciatori e scacciatori. E scacciatori, esatto. Possibile che però non si trovi un modo per regolare la caccia, in modo da renderla più sicura per chi la fa, per chi sta in quei posti dove si caccia, cioè tante persone, ci sono già state quest'anno diverse vittime, ma anche più giusta per il mondo animale e utile anche per l'ambiente. Direte voi, troppa grazia, perché non è possibile trovare una soluzione del genere. Ma invece noi cerchiamo proprio di trovare, lo sapete, si può fare questo, le soluzioni percorribili. E allora abbiamo convocato Pier Nazario Antelmi, delegato del WWF Campania. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. E allora, insomma, lei è tra quelli che stanno cercando in questo momento di fare delle proposte, di trovare delle soluzioni. Una proposta un po' estemporanea l'ha fatta un consigliere regionale della Liguria, che ha proposto a chi va a funghi di andarci con la pettorina fosforescente. E lei ride giustamente, perché è una proposta un po'... Infatti lo avevamo convocato, poi non siamo riusciti ad avere la sua disponibilità. Forse è una proposta un po' fungicida, ci sembrava, perché ci sembra un po' proprio di mettersi il mirino addosso. Esatto. Allora, purtroppo noi comincio a dare questo dato che avete accennato da studio. Sì. In 5 settimane dall'apertura della caccia abbiamo avuto 20 feriti e 12 morti. 20 feriti e 12 morti. 20 feriti e 12 morti. È una carneficina, se pensiamo che in realtà le 5 settimane si riducono a poco più di 25 giornate di caccia, quindi un ferimento o una vittima ogni giorno, più di un giorno anzi. È un morto un giorno sì e un giorno no. Sì, esatto, una vittima più di una al giorno. Chi sono queste vittime? Diciamolo, perché magari uno potrebbe pensare, allora, spesso sono proprio cacciatori. La maggior parte sono tra cacciatori. Poi c'è una buona parte di, fortunatamente la maggior parte sono feriti, sono vittime inconsapevoli di questo sport, di questo che si continua a chiamare uno sport. Vittime inconsapevoli, perché fa ridere la proposta del consigliere della Liguria di indossare il giubbetto arancione, perché la legge dice esattamente il contrario: il giubbetto arancione dovrebbero indossarlo i partecipanti alla battuta di caccia, cosa che non fanno mai. Quindi basterebbe, per iniziare, a far rispettare le leggi e che chi va a caccia le rispettasse. E poi Chi è preposto invece a elevare sanzioni, a controlli, a fare i controlli? Molte delle persone sono ferite perché i cacciatori sparano a una distanza inferiore da quella consentita dalla strada, sparano in aree coltivate dove non potrebbero sparare, e molte volte beccano gli agricoltori. C'è un comportamento scorretto oltre i limiti consentiti dalla legge dei cacciatori, che però il punto è che non viene controllato, non ci sono controlli. E qui arriva anche la sua proposta di tornare a rendere attive, vive e partecipi, a lottare insieme a noi le guardie venatorie, che invece forse sono finite nelle more dei vari tagli alla spesa pubblica. No, le guardie venatorie volontarie, che di fatti sono le uniche, quelle delle associazioni di protezione ambientale, completamente volontarie, noi non prendiamo sussidi, soldi da nessuno, sono le uniche che fanno attività di controllo in materia venatoria. Ma vengono ascoltate, nonostante siano volontarie? Mi perdoni, fronteggio io. Assolutamente sì, ogni volta che noi contattiamo un comando stazione dei carabinieri, oggi dei forestali, il rapporto è ottimale, perché immediatamente intervengono nei limiti possibili, ma il 90% delle volte intervengono. Il problema è che i controlli li facciamo solo noi. La forestale che è stata assorbita dai carabinieri già prima aveva difficoltà, oggi non riesce a fare i controlli. L'altro problema qual è? Che paradossalmente anch'io sono una guardia del WWF, operiamo con il codice alla mano, la macchina fotografica e la carta e la penna per fare i verbali. Noi siamo costretti a rifare ogni 10 anni, almeno in Regione Campania, l'esame per le guardie venatorie, se no altrimenti ci ritirano il decreto. Un cacciatore che prende il porto di fucile a 18 anni non rifarà mai più l'esame fino a che non ce la farà più andare a caccia. Quindi è un'altra assurdità, l'esame da cacciatore si fa una volta sola, invece almeno un esame della vista, che fanno 12 morti. Basta portare il certificato della vita, poi di sana e robusta costituzione? Certo, basta quello e si rinnova, non c'è problema. Non sono soggetti come per esempio chi guida la macchina. Lei mi insegna che dopo una certa età non viene più rinnovata a 10 anni, a 5. Siccome, Antelmi, si dice spesso anche che i cacciatori contribuiscono a tenere l'equilibrio dell'ambiente, perché cacciano le specie che in quel momento vanno cacciate, pensiamo ai cinghiali che comunque conoscono il territorio, eccetera. Allora io chiedo a lei, ma chiedo anche agli ascoltatori all'800 24 00 24, come controllori dei fatti, è vero questo fatto qua? Oppure i cacciatori che se ne vanno in giro nei vostri campi, cari ascoltatori, molti agricoltori che sono all'ascolto di Radio 24, la domenica mattina vi ritrovate i cacciatori nei vostri campi, come giudicate il loro comportamento? Tutelano l'ambiente oppure vi lasciano, che ne so, le cartucce sparse sul vostro terreno, entrano, aprono, non richiudono le recinzioni, cose di questo genere? Io lo chiedo agli ascoltatori, ma lo chiedo anche a lei, da questo punto di vista. Allora, dato certo che il problema dei cinghiali in molte parti d'Italia è un problema reale e che deve essere affrontato, la maggior parte delle persone ferite o vittime o morte quest'anno sono state ferite o uccise da persone che praticavano la caccia al cinghiale. L'arma che si utilizza per la caccia al cinghiale è completamente diversa dalla più che altro la potenza del colpo a cinghiale è completamente diverso da quello dalla rosa dei pallini che si usa per gli uccelli. Ha una gittata molto più lunga e molte volte, lo dimostrano i ferimenti, sparano alla cieca, cioè basta vedere delle foglie o un cespuglio che si muove, sparano nel cespuglio. Ma mi scusi, molte volte prendono il cinghiale, molte volte prendono invece l'essere. Certo, ma la cosa che le volevo chiedere è che in realtà si tratta, la maggior parte delle volte che ci sono feriti o addirittura morti, si tratta di operazioni illegali di caccia, giusto? Allora, uno dei primi feriti in Regione Campania, e non è uscito, e questo mi dispiace perché una parte del giornalismo purtroppo quando si tratta di avvenimenti. Vabbè, ma non parliamo di giornalismo, parliamo di caccia. No, per carità. Allora, uno dei primi episodi di ferimenti all'interno della Regione Campania è stato un presidente dell'ATC, cioè l'organo che gestisce i cacciatori sul territorio, è stato ferito dal suo collega di braccata in una giornata di chiusura in area parco, quindi completamente illegale. Ci sarebbe da ridere, che si sparano. Chi dovrebbe dare l'esempio ai cacciatori? Perché questo presidente è quello che dovrebbe dare l'esempio ai suoi cacciatori che operano nel suo territorio, perché lui è il presidente. Certo, del sì, beh, è chiaro. Non, è primo dal contrario dell'esempio. Ma facevamo questo esempio però per questo motivo, nel senso che non si tratta di ostracizzare la caccia, o perlomeno non in questo momento, nel senso che la caccia in Italia è legale con certe regole. E giustamente uno dice facciamo rispettare queste regole, perché se ci sono dei giorni in cui si può cacciare, tutti lo sanno, invece questi cacciano degli altri giorni, io che sono un raccoglitore di funghi, che so che quel giorno nessuno spara, invece mi sparano, quello diventa un problema, giusto? Ma non è assolutamente sì, ma non è solo rispettare le giornate. L'altro giorno, sempre qui in Campania, ma capita ovunque, sì, l'Ibis Remita l'hanno ferito o ucciso in altre parti d'Italia, una squadra di volontari stava facendo dei controlli durante il fine settimana, hanno visto alzarsi in cielo un airone cenerino, che è un animale, non so se lo conoscete, molto grande, e comunque è un po' che non lo vediamo, è impossibile confonderlo con una specie cacciabile, è grande, è grigio, ha un becco lungo, non ha fatto neanche 20 metri in volo, è stato abbattuto al volo. Quindi, senta, Antelmi, le voglio fare totale, le voglio chiedere e lo chiedo anche agli ascoltatori, perché anche questa è una cosa che chiediamo all'800 24 00 24, se qualcuno ha delle idee buone, siamo qua per accoglierle, per regolare, riformare, modificare la caccia, perché no, cari amici cacciatori che state scrivendo, in realtà noi non è che abbiamo detto che la caccia va abolita, se abolirla o no è una questione che non ci riguarda, diciamo come si può regolarla, renderla migliore. Le chiedo a lei, Antelmi, se ha delle proposte da fare e che riguardino forse proprio questo tema che lei ha sollevato, giusto, dei controlli venatori, perché io ho molti che ci stanno scrivendo, vedi, al 349-238-6666. In questo momento siamo a Modena, stiamo facendo controlli venatori, e questo è uno della polizia provinciale, poi abbiamo altri ascoltatori che dicono evviva le guardie venatorie volontarie, però bisogna migliorarle, rinforzarle, pagargli lo stipendio, mi dica lei, finanziarle. No. Allora basterebbe che con un minimo di buon senso e di coscienza chi pratica la caccia, perché consentite, noi non stiamo chiedendo di chiudere la caccia. Tra l'altro in Italia la legge sulla caccia è una delle migliori. Il problema è che non viene assolutamente rispettata, non vengono rispettate il numero di abbattimento, le tipologie, le regole. Quindi se cominciassero le associazioni venatorie in primis a chiedere ai loro associati a rispettare le regole, il rapporto sarebbe già molto più semplice, sarebbe molto più ragionevole. Un altro grande problema che stiamo riscontrando noi è che da parte del Ministero, ora che c'è stato questo fenomeno eclatante della siccità e poi degli incendi, da parte del Ministero dell'Ambiente è come se avessero girato la faccia. Abbiamo scritto tutti quanti al Ministero, tutte le associazioni nazionali, grandi, piccole, i cittadini, noi abbiamo raccolto firme, e il Ministero non ha preso minimamente in considerazione queste nostre richieste, tra l'altro suffragate dall'ISPRA, che è un organo dello Stato che chiedeva alle regioni campane e al Ministero, alle regioni italiane, chiedo scusa, e al Ministero di modificare un attimo l'assetto venatorio per quest'anno, perché non era il caso di continuare la caccia così come era stata prevista, perché era stata prevista in certe condizioni è partita in condizioni completamente diverse. È il caso del Piemonte, dove stanno bruciando vallate, ci sono gli incendi, c'è la siccità, gli animali sono più in difficoltà, quindi la caccia è da rivedere, maggiormente crudele da un certo punto di vista, quantomeno rischia di essere più devastante da un altro punto di vista. Io ringrazio Antelmi, delegato del WWF Campania, grazie per essere stato con noi, buona domenica. E insomma, agli ascoltatori ricordo intanto che cerchiamo anche un personaggio della settimana, non fate che è orgoglioso l'occasione, esatto, è un personaggio orgoglioso, quindi pensate a qualcuno che ha una notizia che riguarda gli ultimi 7 giorni, 800 24 00 24. E poi su questa questione della caccia, i numeri: 12 morti, 20 feriti quest'anno, l'anno scorso furono a fine stagione, a fine gennaio, 31 morti e 48 feriti. Facciamo che quest'anno non arriviamo a questa cifra, ci proviamo in qualche modo, però bisogna fare qualcosa, fare qualcosa. Se siamo già a 12 siamo già molto avanti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Get up, get on up, stay on the scene, get on up, machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine. E allora, a proposito di ambiente, c'è un personaggio che è cruciale nella vita dell'ambiente, sono le api. Sono le api, e allora, se la caccia è una questione discussa, questo accordo raggiunto tra gli agricoltori e gli apicoltori per salvare le api dovrebbe essere sicuramente un'ottima notizia. Ne parliamo con il presidente della Federazione Apicoltori Italiani, Raffaele Cironi. Buongiorno, benvenuto. Alessio e Carlo, buongiorno a voi, buongiorno a Radio 24. Buongiorno. E allora, che cosa prevede questo accordo per, diciamo, diminuire l'intensità, insomma, di minacce che ci sono nell'ambiente, portate spesso dall'uomo contro le api, che sappiamo sono un alleato invece fondamentale, no? Ricordiamo anche perché non possiamo assolutamente fare a meno delle api. Ecco, partiamo da qua. L'ape è l'anello di congiunzione fondamentale per il servizio di cosiddetta impollinazione. Se non ci sono le api, le piante non si riproducono, non abbiamo fiori, non abbiamo frutti, non abbiamo seme e tutto sommato non avremo nemmeno biodiversità e ossigeno da respirare. Cioè non avremo vita, non avremo niente quasi. Esattamente. È bellissimo che l'ha definito servizio, il servizio di impollinazione, che detto così sembra una app. Ho come la sensazione che domani inventeranno una app che si chiama servizio di impollinazione. Ma viva le app, viva le startup che si occupano di apicoltura, ce ne sono tantissime, c'è un ecosistema anche in quel mondo. Però tornando all'accordo, questa è una piattaforma, diciamo così, d'intesa finalizzata all'applicazione delle buone pratiche agricole. Che cosa significa in pratica? La salvaguardia del patrimonio apistico deve valorizzare il servizio di impollinazione e quindi le aziende agricole si aprono all'accoglienza degli apicoltori. Gli apicoltori vanno di buon grado nelle aziende agricole perché prestano un servizio e portano a casa un prodotto. Quali sono le minacce principali che ci sono oggi per le api e contro le quali invece si cerca di agire con questo accordo? Ma il cambiamento climatico sicuramente per noi è un grosso problema, però direi, rimanendo nell'ambito agricolo, la grande difficoltà è la rarefazione di colture mellifere e pollinifere, che significa c'è carestia, c'è poco cibo per noi apicoltori e le nostre famiglie di api, e quindi noi diciamo certamente al mondo agricolo, nell'ambito di questa intesa, veniamo a darvi una mano lì dove c'è produzione di seme, lì dove c'è produzione di ortofrutta, veniamo a darvi una mano per impollinare, quindi per incrementare la produzione lorda vendibile del mondo agricolo. Un esempio, un dato, visto che siamo a Radio 24, gli apicoltori mettono insieme una PLV, quindi un valore annuo di forse 50-60 milioni di euro. Le api al mondo agricolo ogni anno regalano in Italia, solo in Italia, 1,5 miliardi di euro. Voi capite bene che siamo quasi a livello di grande azienda come fatturato. E mi sembra anche molto sbilanciato, insomma, 60 milioni da una parte, 1,5 miliardi dall'altra. Tant'è vero che il nostro principale lavoro è quello dell'impollinazione, come dicevamo in inizio di collegamento, e quindi il principale mestiere dell'ape non è produrre miele, ma assicurare che l'agricoltura sia produttiva. Senta, ma nemmeno Sting però è riuscito a fermare il calo del miele, perché anche lui c'ha dei terreni in Toscana e non c'è riuscito neanche lui, insomma. È una lotta davvero difficile questa qua. Né lui né i 70-75 mila apicoltori che ci sono in Italia, siamo la terza, quarta apicoltura su scala europea, però purtroppo... Giustamente ricordiamo gli altri 75 mila e non solo Sting, giustamente. ma viva sempre Sting, non solo come apicoltore, però per quanto riguarda la produzione apistica, quest'anno abbiamo dovuto combattere col cambiamento climatico, in particolare con eventi siccitosi, quindi comunque la difficoltà per le fioriture di arrivare però a c'è anche una richiesta, no, che riguarda gli insetticidi e anche altre sostanze tossiche, no? In certi momenti dell'anno, forse in particolare per certe piante in particolare, chiedete agli agricoltori che cosa? Ma guardi, la buona pratica agricola significa proprio questo: non si tratta durante il periodo della fioritura, e non lo diciamo noi apicoltori, lo dice una legge che difende il comparto agricolo, ma il apistico, ma lo dicono anche le buone pratiche, appunto. Quindi voglio dire, un agronomo è evidentemente interessato a far sì che la produzione agricola si realizzi grazie al servizio delle api. Durante il periodo di fioritura non bisogna dare insetticidi alle colture agricole. Certo, è molto chiaro, è molto chiaro. In tutte le sue risposte è molto chiaro, devo grazie, dire. Grazie Cirone, grazie veramente. Al Presidente della Federazione Apicoltori. Che vi siete dedicati alle sosti dell'ape italiana, ve ne siamo profondamente grati. Siamo grazie al vostro mille. Fianco, grazie anche mille. Se non ho mai visto un alveare da vicino. Come ma... no? No, no, mi io manca sì, questa adoro esperienza. Il miele, quindi. Quello anch'io. È importante, ci sembrava una buona notizia da dare, l'agricoltura migliora sempre la sua qualità in Italia e quindi in questo caso dà una mano anche agli apicoltori. Che col calo di produzione di miele che c'è stato ne hanno bisogno. Ascoltatori, Maurizio da Roma, vai, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Intervengo per il personaggio. Sì. Prego. Chi è? Per me è Massimo Giletti, perché con orgoglio rivendica il suo operato in Rai e sempre con orgoglio sfida Fazio la domenica sera. Col nuovo programma che c'è sulla 7, credo, sì. C'è sulla come 7, si chiama il programma, lei lo sa, se lo ricorda? No. Boh, non no, importa, non me lo scopriremo ricordo. Vivendo. In effetti, Maurizio non era però Giletti. Non era, ma la notizia c'è e siamo contenti di aver ricordato anche che Giletti ha detto: sfido Fazio sulla 7 perché vado nello stesso orario di Fazio sulla Rai. Belle queste sfide mediatiche, come si chiamano? Virtuali. Televisive. Televisive, bravo, sì, semplifichiamoci la vita. 800-24-00-24, un altro il personaggio orgoglioso che cerchiamo. Laura da Milano, buongiorno. Buongiorno. Cosa allora, buongiorno. Allora, io voglio dire una cosa sulla caccia che non mi sembra di aver mai sentito più di tanto nominare, sì. Ed è che i cacciatori, in realtà, nella maggior parte dei casi, gli animali a cui sparano sono stati da loro comprati tramite gli ambiti territoriali della caccia, che sono degli organismi che sono di tipo, credo, provinciale. O cioè sì, sono spesso locali. Ripopolamenti, succede per esempio con i cinghiali. Non sono esattamente ripopolamenti, nel senso che vengono proprio comprati a tranche animali che vengono liberati, addirittura con una denominazione che si chiama pronta caccia, cioè li libero il giorno prima del giorno in cui si può cacciare, in modo che poi chi va sul territorio possa trovare qualcosa. Una sparare. Caccia troppo teleguidata, insomma, dici? Nel senso che effettivamente questi animali qua non hanno né una gran possibilità di salvarsi, poveretti. Ma è chiaro, nemmeno... è chiaro, dobbiamo chiudere però Laura, grazie per averci chiamato. Ci risentiamo dopo il GR delle 9, a più tardi. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E quando sono le 9:08 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Diamo spazio al sindaco di Bari, Antonio De Caro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ben ritrovato, che so che sta per dare il via alla maratona, vero? Alla mezza maratona, nel senso che devo correre anche deve io, correre. Non devo solo dare il via. Ah, deve anche correre perché partecipa anche. Sì, perché ho preso un impegno e sai purtroppo... che De Caro è così, corre. Giusto, giusto. Deve andare al via della maratona. Allora, sarei rimasto volentieri nel letto, ma però fa ho preso un impegno. No, non lo dica così, ma fa anche la maratona intera o solo la mezza? No, ma non riuscirò nemmeno a fare la mezza oggi, per fortuna c'era 10 km la mezza, faccio la 10. Ma ci usi come scusa allora, rimanga in collegamento con noi durante tutta la maratona. Magari, allora abbiamo convocato De Caro per commentare un paio di notizie che ci stanno a cuore. Una riguarda la questione dei parcheggiatori abusivi, che abbiamo già detto altre volte, può sembrare un tema minore, un piccolo tema, però in molte zone d'Italia, ma adesso sembra che il fenomeno si stia allargando anche al nord, sta diventando un po' più preoccupante. E anche soprattutto perché è un problema che tocca direttissimamente i cittadini e poi spesso finisce male, perché se non dà retta al parcheggiatore abusivo, spesso e volentieri, se si tratta di mezzi criminali, perché c'è anche questo. visto, è successo a Napoli per esempio, auto devastata e studenti stranieri minacciati. Allora, voi avete messo a punto lo strumento, quello che vi ha dato Minniti, il DASPO? Sì, in realtà l'avevamo chiesto noi, sindaci con l'Associazione Nazionale dei Comuni, avevamo chiesto al Ministro degli Interni di individuare, diciamo, un elemento per migliorare la percezione di sicurezza in città, in particolare la presenza dei parcheggiatori abusivi, che sono gestiti nella maggior parte delle nostre città dalla criminalità organizzata, nel senso che si dividono il territorio e utilizzano persone che non hanno beni di proprietà, e quindi la multa, anche quella massima di 600 euro, la sanzione amministrativa, non la pagano. Non funziona da deterrente perché non la pagano. A quel punto il DASPO è un elemento che potrebbe, lo stiamo verificando, dissuadere o comunque allontanare. Ecco, nella mia città ci sono stati due DASPO successivi ai due, diciamo, allontanamenti per 24 ore fatti direttamente dalle forze dell'ordine, poi al secondo il questore ha emanato una sorta di DASPO che vale per 6 mesi, e quelle due persone, devo dire la verità, non si sono ripresentate in quelle 2 ore. Però solo dopo, diciamo, loro hanno ricevuto un mini DASPO di 48 ore, dopodiché, del quale se ne sono bellamente fregati, dopodiché li avete ribeccati e quindi è scattato il DASPO di 6 mesi. È scattato il DASPO del questore, che è quello di 6 mesi, e non li abbiamo più rivisti in quella zona. Ma mi scusi, anche il DASPO di 6 mesi è solamente in una zona? Perché uno dei problemi di questo DASPO, mi sembra che io vengo beccato a fare il posteggiatore abusivo in piazza Aldo Moro e quindi mi viene preclusa piazza Aldo Moro, mi sposto in piazza Garibaldi e così via. Siccome in una città di piazza ce n'è tante, prima che uno abbia il DASPO per tutti i parcheggi è in età pensionabile anche a 67 anni. Non è facile, diciamo, andare a fare il parcheggiatore abusivo in un'altra zona. L'allontanamento da quella zona sulla base del decreto Minniti è difficile andare in un'altra zona. Ci sono zone dove il parcheggio, diciamo, non è nemmeno remunerativo, e zone dove ci sono altre persone. Beh, però se è gestito dalla criminalità organizzata, come giustamente potrebbero far ruotare, però poi esatto. Termine le faccio sentire, De Caro, un audio che è l'assessore alla aspetta che non ricordo, credo alle politiche giovanili, con anche una delega che riguarda questa tematica, di Napoli, Clemente, Alessandra Clemente, che ha fatto una proposta e l'ha girata proprio all'ANCI, del presidente dell'ANCI, per far tornare il parcheggio abusivo un reato penale. Sentiamo. Dalla città di Napoli, in sede ANCI, abbiamo richiesto al legislatore di modificare la normativa e di renderlo da illecito amministrativo a illecito penale. Questi soggetti sono noti, li conosciamo. Com'è possibile quindi accettare tutto questo? Che ne pensa di questa proposta, De Caro? È la proposta che abbiamo fatto noi come associazione dei comuni, cioè dopo il DASPO il reato penale, la possibilità di andare in carcere. Ah, perfetto, siete allineati. Soprattutto quando il parcheggio abusivo viene, diciamo, esercitato in maniera estorsiva, come accade più delle volte. Ecco. Il tema è che quello era un decreto, e quindi nel decreto non si possono modificare, cioè trasformare una sanzione amministrativa in un reato senza passare da una legge. Si poteva fare la modifica attraverso il dibattito parlamentare, ma i parlamentari non hanno voluto inserire. Ma non è esagerato. È già stato importante, diciamo, far passare il concetto del DASPO. Ma mi chiedo, non è esagerato? Non è esagerato quando è una forma di estorsione. Certo. Quando una persona va in un negozio e dice: se non mi paghi ti faccio saltare il negozio, è un reato. Quando invece una persona in maniera subdola dice: mi devi pagare il caffè, devi darmi 2 euro per parcheggiare l'automobile, puntini puntini, e uno fa capire che l'automobile magari non la trova più, la trova raschiata, può trovare le ruote, i pneumatici che sono, cioè, quando c'è una minaccia. Mi ha convinto, perché fino a un minuto fa dicevo vabbè, però mandare in galera, cioè già ci sono le carceri strapiene, mandarci anche i parcheggiatori abusivi, però lei giustamente dice nel momento che è un'estorsione non ci farebbero nemmeno un giorno di galera, perché con lo svuota carceri non ci sarebbe la possibilità della galera vera e propria, però comunque resta sulla pedina penale. Oggi davvero con la sanzione amministrativa non fa davvero paura a nessuno. Io non so se la stanno già tirando per la pettorina per iniziare la gara, c'è ancora due minuti per noi, perché c'è un'altra notizia che abbiamo letto che riguarda sempre Bari, notizia minore, però ci viene il dubbio che veramente vi state trasformando in sindaci sceriffi. Cani vietati nei giardini pubblici. No, no, non mi permetterei mai. Non solo non ho il fisico dello sceriffo, ma come ho detto più volte in campagna elettorale, il sindaco italiano non è il sindaco di New York che governa le forze dell'ordine. Quello non è un giardino, quello è un parco giochi in realtà, poco giardino, ed è uno solo, è dedicato a un ragazzo che ha perso la vita qualche anno fa in un incidente stradale, è un ragazzo che si chiamava Mimmo Bucci, e all'interno di quel parco giochi per i bambini entrano tre spacciatori con dei pitbull all'interno. Allora, non riusciamo a beccarli quando spacciano, però non possono stare con i pitbull in contemporanea con i bambini che lasciano liberi pure, con i bambini che stanno giocando sulle giostre. Quindi quel solo parco, che più che un giardino è un parco giochi piccolino per i bambini, è stato vietato all'ingresso dei cani. Ma non, conviene vietare l'ingresso ai pusher invece che ai cani? Sì, e infatti pusher ci abbiamo la polizia davanti, però proprio perché non gestisco le forze dell'ordine, certo, quello che posso fare è almeno evitare che i cani di grossa taglia possano creare dei problemi ai bambini che li giocano. Infatti quel parco che era nato per i bambini ha visto i bambini allontanarsi piano piano. Quindi è una falsa polemica, mi sembra di capire. Facendo un investimento importante su quel parco, facciamo quest'estate, abbiamo fatto un concerto ogni fine settimana, abbiamo animato, abbiamo affidato il piccolo chiosco della legalità ad un'azienda, adesso lo stiamo affidando ad un'altra azienda, l'abbiamo affidato tutto quel parco giochi all'oratorio dei Salesiani della nostra città. Meraviglioso. Vogliamo allontanare, sono andato più volte io ad allontanare quelle persone, adesso quei cani di lì devono uscire. Nella mia città invece c'è una controordinanza che dà la possibilità, sì, a tutti i cani di entrare in tutti i parco giochi della città, in tutti i giardini della città, in tutti i parchi a verde della città. Nessun parco è vietato ai cani, tranne quello. Bene, perché c'è il nostro autore Andrea Piana che è il cane, era preoccupato di questa cosa. No, di pare. No, avevamo in realtà letto, avevamo un po' ingigantito, perché i titoli come sempre allargano poi lo spettro della notizia. Senta, prima di lasciarla, De Caro, lei è un esponente di primo piano del Partito Democratico, Grasso ha lasciato il PD, lei resta invece, sì? Ovviamente sì. Sì, mi occupo poco di politica perché da quando faccio il presidente dell'associazione dei comuni devo cercare di tenere dentro tutti. Ma vuole augurare qualcosa a Grasso? Sì, no, mi aspetto, mi dispiace perché Grasso, come ha detto Veltroni ieri, diciamo il PD è nato anche per persone come Grasso. Spero ci ripensi, anche perché questo paese ha bisogno, diciamo, di un partito importante a sinistra. Io credo che il Partito Democratico risponda. Ma qualcuno ha sbagliato qualcosa? Il fatto che un esponente così importante lascia, ha sbagliato tutto Grasso a entrare prima? O forse qualcuno si poteva gestire diversamente? Ma secondo me, se ci fosse stato più dialogo all'interno delle varie anime del mio partito, probabilmente non avremmo avuto, diciamo, non avremmo avuto un'emorragia. Poi certo c'è un pezzo di partito che è andato via perché non sopporta il leader, però diciamo che partito, il dialogo non è il vostro partito, forte, possiamo dire che... nel mio partito però ci sono le primarie, contrariamente ad altri partiti. Vero. Si fanno le primarie dove la gente si sveglia la mattina, va a votare, va ai gazebo in carne e ossa, hanno scelto Matteo Renzi, quello è il leader. Se qualcuno, diciamo, non lo sopporta, poteva evitare anche di partecipare alle primarie. Certo, è molto chiaro. In un partito democratico c'è un modo per eleggere il proprio segretario. Quello è il segretario, i cittadini hanno dato, gli elettori del PD hanno dato un mandato al segretario, la linea del segretario era chiaro, o uscivano prima oppure va bene, giusto, va bene. Inizia a fare stretching perché adesso l'abbandoniamo la gara. E ci colleghiamo perché vogliamo vederla correre. Buona mezza maratona, grazie. Grazie mille. Allora, ascoltatori, stiamo cercando anche un personaggio della settimana, non ci distraiamo da tutto questo. Anche perché fra poco diamo un secondo indizio, giusto? Sì, adesso ripetiamo il primo, è orgoglioso. Abbiamo qualcuno in linea? No, dopo il traffico, dopo. Si può fare. Allora, E questo era Antonio De Caro. Vi ricordo che questa mattina siamo partiti però dal tema della caccia, cari ascoltatori, e insomma vi chiediamo di fareci da controllori dei fatti sul tema caccia, perché insomma, perché andate a caccia, visto che carne ne abbiamo in abbondanza, carne di animali, passatempi più sicuri ce ne sono anche qui in abbondanza, si rischia addirittura la vita. Allora vi chiediamo, però senza essere provocatori, veramente vogliamo anche il vostro punto di vista, amici cacciatori all'ascolto, 800 24 00 24, e chi invece vive attorno alle zone di caccia, se è vero quello che si dice che i cacciatori aiutano a tutelare l'ambiente, l'equilibrio ambientale, come si comportano i cacciatori sui vostri territori, 800 24 00 24. Oh, però che cosa si è mosso nel mondo questa settimana? Abbiamo una buona notizia, per esempio, senti qua Carlo, che riguarda l'università di Foggia, perché siamo sempre in Puglia, vedi, regione virtuosa, hanno trovato i soldini per dare un aumento ai ricercatori. Si dice sempre ricercatori italiani che se ne vanno all'estero perché in Italia non ci sono soldi per la ricerca. Ebbene, 200 euro di aumento al mese per i ricercatori. Cerchiamo di invertire la rotta. Mi sembra molto, molto giusto darla questa notizia, Foggia, perché sì, diamo sempre la notizia del fatto che i nostri ricercatori, esatto, sono sottopagati, scappano all'estero, sono obbligati ad andare in un altro posto, però per poi vincono un sacco di premi quando sono all'estero, quindi sono bravi e sono capaci. A noi ci spiace semplicemente che dopo aver in qualche modo finanziato i loro studi, poi in realtà portino lustro e successi ad altri paesi. Anch'io ho una buona notizia, sempre dell'università, parliamo di Torino, si inaugura il corso di storia dell'omosessualità. Penso che è un corso che devo andare a fare anch'io, ci andrei molto volentieri. Varrà 6 crediti formativi, sarà al DAMS di Torino, sarà tenuto dalla professoressa a contratto Maya De Leo, e ci sembra una buona notizia. Allora, chi abbiamo? Qualcuno all'ascolto? Mariangela da Treviso, buongiorno, sì, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa volevi intervenire, Mariangela? Io volevo intervenire per cercare di indovinare il nome del personaggio. Chi è? Allora, io penso che sia Gentiloni. Gentiloni, che? Come mai? Allora, ho pensato questo molto semplicemente. Lui è entrato in contrasto con Renzi per la riconferma di Visco, e ha cercato di smussare, tra l'altro affermando di essere molto orgoglioso di far parte del PD. È tutto giusto, è tutto giusto, e infatti era un po' un trappolone, non è il personaggio che avevamo scelto, però siamo contenti che abbia ricordato la settimana di Gentiloni, anzi direi che ha ricordato perfettamente tutto lo scontro Gentiloni-Renzi. Cara Mariangela, anche perché quando poi daremo il secondo indizio forse capirai che non poteva essere Gentiloni, Egle, abbiamo Egle da Palermo, però non diamolo adesso, diciamo tra un attimo, sì, vai Egle. Sì, ecco, per me il personaggio è Piero Grasso. Presidente del Senato. Presidente del Senato, sì, che è molto orgoglioso, come io palermitana, insomma, conosco bene, molto orgoglioso che non, insomma, è un'estimatrice, lei è un'estimatrice di Grasso in qualche modo? Ma insomma, in un certo senso sì. Sì, sì. Ha abbandonato il PD, quindi ha abbandonato lei dice, il PD, appunto. Scatto d'orgoglio, tac, sì. E però non era lui. Non era lui. Ma Pietro, giusto, no? Piero Grasso. Pietro, sì, insomma. Va bene. Ma Piero Grasso, sempre chiamato. Sì, c'ha questa T che va e viene, eh? Pietro, non sapevo. Piero, io l'ho sempre chiamato Pietro. Cioè, io non l'ho mai chiamato per nome, diciamo, però ho sempre pensato che si chiamasse Pietro. Allora, a questo punto, se non abbiamo altre chiamate sul personaggio al momento, ce l'abbiamo un altro personaggio da dare? Vediamo chi è, perché io sto per dare un secondo indizio, quindi rullino i tamburi, blablabla. Però prima sentiamo Walter da Roma. Sì. Vai. Buongiorno Maurizio, buongiorno Carlo. Buongiorno. Sì. Buongiorno a voi. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Secondo me è Lotito. È Lotito. Lotito. Potremmo chiedere qual è la notizia, ma in effetti la notizia c'è questa settimana. Cosa è successo? Anna Frank, che la curva dei tifosi a come posso. La manovella che rotola, dai Walter, che ce la fai? Il bello del gioco è che siete voi a raccontarci le notizie. Succede che i tifosi della Lazio mettono i manifesti con la faccia di Anna Frank, con la maglia della Roma, come se fosse un'offesa, una cosa stupida, vergognosa, stupida, eccetera eccetera. E Lotito poi, per scusarsi di queste cose, ha fatto un'altra gaffe, che ha dato è stato intercettato una sua telefonata sull'aereo in cui si diceva vado a fare sta buffonata, sì, sceneggiata. E dov'è l'orgoglio, dove sarebbe l'orgoglio, perché il nostro indizio era perché lo dito, da quello che ho sentito, da quel poco, perché non sono tifoso laziale, da quel poco sono, dice l'orgoglio nostro bianco-azzurro di essere vabbè, Walter, non era lui, non c'era lui, neanche vabbè, l'orgoglio secondo me qua, non c'era niente, però la notizia c'era tutta, quindi hai fatto bene a provarci, non era lui il personaggio. Diamo un altro indizio e usciamo dalle more di Lotito, anche se in realtà, allora, il secondo indizio è che il personaggio che stiamo cercando è un personaggio sportivo. Quindi orgoglio e personaggio sportivo. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Si può fare. Andiamo ancora con qualche intervento degli ascoltatori. C'è Gabriella che ci chiama da Lecco. Sì. Buongiorno. Buongiorno cari amici. Vai Gabriella, su cosa volevi intervenire? Io volevo dare il nome del personaggio misterioso, ci provo. Fantastico. Molto volentieri, prego. Chi è? Valentino Rossi. Ah. Si è dichiarato orgoglioso, sebbene arrivato quinto, non mi ricordo quale gara. Sì, ma noi qua non facciamo domande così, eh. È domenica per tutti, non siamo a scuola, quindi okay. Ci mancherebbe. Va bene, niente, va bene. Orgoglioso di avere ancora la voglia di competere, giusto? È un super orgoglioso sicuramente. È un super sportivo, beh, certo. Ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Peccato. Ci spiace. Grazie, stavo per dire Gabriella, grazie. Però appunto bisogna cercare ancora un personaggio orgoglioso e uno sportivo. Dario da Roma, benvenuto. Buongiorno. Sono Dario da Roma. Allora, sì. Parlo? Certo. Sì. Io parlo da cacciatore. Sì. A parte io sono anche anomalo, perché io mi diletto anche con una doppietta d'avancarica o con i calibri inferiori. E ci deve spiegare, però, noi non sappiamo nulla di doppietta. La doppietta d'avancarica è quella che avevano i trapper che trovate sui film degli indiani. Cioè non ho le cartucce, ma ho la polvere, ho il piombo, ho la borra e ogni volta che sparo per ricaricare ci vogliono 3-4 minuti perché devi fare tutto. E ma, non ho un tiro. Ma tipo quelli dei pirati? Esatto, quelli lì. Ma è bellissimo. Ecco, è un modo di caccia. Poi ho i calibri inferiori, cioè calibri con cui è un pochino più difficile centrare l'animale. Sì. Però vengo da tu perché quel vai tipo a caccia? Perché la domanda io, che noi oggi facciamo, allora, si rischia addirittura la vita. Guardi, le posso dire che muoiono molto più alpinisti senza fucile che cacciatori. Questo è statisticamente provato, lo leggete in tutti i giornali, tutti i giorni. Sì, è che noi ci interroghiamo. La patente. È chiarissimo, ma noi ci interroghiamo anche. È difficile che un alpinista cadendo schiacci un altro alpinista. No, invece il problema del cacciatore è che a volte ammazza un altro. Ammazza uno che non è lì per cacciare. Sì, non ammazza se stesso. Comunque, gli alpinisti, più volte è successo che cade il capo cordata e muoiono tutti. Comunque, sì, sono tutti alpinisti, anche gli altri, però. Sono sempre comunque. Vabbè, Dario fa il paragone con gli alpinisti, ma e quindi però, la motivazione però qual è? La motivazione per cui vado a caccia? Sì. È perché a voi piace mangiare un pollo vissuto 18 giorni e che è pronto da mangiare. Mm-hmm. E a me non piace, io quando capita prendo il pollo d'allevamento casalingo che vive 2 o 3 mesi e non mangio più quel pollo lì, io non mangio il maiale. Cioè, tu vai che a caccia per mangiare, la carne che caccia. Io la caccia che caccio, quello che caccio io lo mangio. Cosa cacci normalmente? Ci vado. Che cosa prendi? Normalmente io vado con il mio cane da penna cercando il più possibile animali che grazie alle leggi europee non ci sono più, perché in Italia abbiamo una delle leggi più restrittive d'Europa. Poi dopo i cacciatori italiani abbienti, perché è ritornata la caccia del Medioevo, no? Chi c'ha i soldi ci va e chi non ce l'ha rimane a casa. Quelli più abbienti se ne vanno all'estero e fanno delle stragi che leggete tutti i giorni sui giornali. Sì, però non riserva, sono i cacciatori sì. italiani quelli lì. Dove vanno? All'est o nel nord? All'estero. L'altro anno a Tripoli, Tunisia mi sembra, uno si vantava, ha ucciso 1000 tordi. In Italia io durante l'arco dell'anno posso uccidere massimo 100 tordi, 10 all'uscita. In Italia ci sono tantissime leggi che gestiscono la caccia. Però sono leggi giuste, le sembrano giuste o no come queste leggi? Le leggi dovrebbero essere applicate in tutta Europa così, perché altrimenti è inutile. Certo. Perché io non posso e gli altri fanno come gli pare. E poi una cosa, un pochino di controlli di più, ma mirati. Giusto. Ancora c'è gente che va in giro con richiamo elettronico, però il problema è che ancora c'è gente... Cos'è pagata, richiamo elettronico? Il richiamo elettronico è praticamente gli animali di passo ti vengono a mangiare sulla mano. Ecco, siccome è vietato, ma... Io pure quest'anno non mi hanno mai fermato, non mi ha fermato forestale, non mi ha fermato nessuno. I controlli, su questo Dario ci salutiamo, grazie, perché su questo no, però è una testimonianza molto giusta, perché infatti... è un cacciatore che dice io caccio ma voglio i controlli, non solo voglio i controlli ma la legge italiana che è molto restrittiva la vorrei applicata in tutta Europa. E questo dà ragione a quello che dicevamo anche in apertura con il responsabile del WWF Campania, ci vogliono i controlli, le guardie venatorie sono volontari, però bisogna trovare il modo di sostenerli, di farli in maniera più a tappeto su tutto il territorio. Beppe, dalla provincia di Torino, vai. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Beppe? Allora, volevo intervenire per il personaggio misterioso. Chi è? Direi Gianluigi Buffon. Perché? Gianluigi Buffon, perché? Perché è stato premiato come miglior portiere al mondo, tra l'altro poi quest'anno smetterà di giocare, comunque è sempre più grande, insomma. Basta così, è più grande. Beh, è vero, comunque sì, è stata però, una settimana sì, dove effettivamente sì. ha vinto un premio come miglior portiere esatto. del mondo e ha anche fatto delle bellissime dichiarazioni dicendo quando hai dietro un altro portiere così bravo puoi andartene tranquillamente, questo è l'ultimo anno che giocherò. Secondo quindi me è lui. La notizia c'era, ma non è lui che avevamo scelto, scelto. Caro Beppe, grazie. Però siamo contenti di aver ricordato le gesta del portiere della nazionale. Possiamo dire come semi-aiuto che è uno sportivo, magari meno da prima pagina di Buffon, giusto? Fino a qualche giorno fa, quando poi è successa una notizia, allora se ne è parlato perché c'è una notizia, cari ascoltatori. Allora è il momento di lanciare e presentare la seconda puntata della rubrica della Scuola Buona, perché col maestro Alex Corlazzoli ogni domenica a scuola non si va la domenica, però invece siamo noi sì. Noi sì, siamo noi che vi proponiamo di tornare a scuola, a chi? Agli adulti, perché si parla tanto di scuola, se ne parla tantissimo, però noi tutti siamo lontani dalla scuola da tanto tempo. Che succede nelle scuole italiane? Non lo sappiamo neanche noi. Allora abbiamo chiesto ad Alex Corlazzoli di raccontarci le cose belle che accadono nella scuola italiana. Ciao Carlo, ciao Alessio, oggi la Scuola Buona di questa settimana vuole partire con una domanda da fare a voi e da fare ai nostri radioascoltatori. Ma voi avete mai avuto un professore che vi insegnava matematica ma che in fondo dicevate ma chissà, se fosse un altro forse la imparerei meglio? Bene, questo è possibile perché al liceo linguistico Manzoni di Milano hanno inventato i prof in sharing, per cui la didattica plurima, come lo chiama qualcuno, si scambiano i professori da una classe con l'altra e questo permette in qualche modo di vedere modi diversi di insegnare, una scuola che diventa più innovativa e anche ai professori in qualche modo di scuotersi dalle proprie abitudini e di offrire anche a loro stessi la possibilità di confrontarsi veramente con un collega. Questa è veramente la scuola che si può fare, la scuola che diventa una sorta di laboratorio in sharing per tutti. È il momento di approfondire un'altra notizia, una buona notizia di questa settimana, una buona pratica, perché è stato firmato l'accordo tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e Lega Ambiente per l'utilizzo delle persone che devono scontare delle pene in impieghi di utilità sociale, in questo caso a sfondo ambientale. Naturalmente ricordiamo che le statistiche ci dicono che tutti i condannati che scontano le pene o con riti alternativi o con progetti di lavori socialmente utili hanno una recidiva minore, in sostanza arriva più facilmente l'agognato sospirato recupero delle persone. Questo è quello che ci sta a cuore. Ne parliamo con Gemma Tuccillo, che è capo Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità al Ministero della Giustizia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Allora, che cosa prevede questo accordo, che noi salutiamo come una buona pratica e lo speriamo naturalmente? Assolutamente sì, e sono particolarmente contenta di parlarne, perché questo accordo si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che vedono coinvolte associazioni legate a pratiche particolarmente coinvolgenti sotto il profilo proprio dell'appartenenza alla cittadinanza attiva, che coinvolga soggetti che hanno da scontare una pena, ma più nello specifico direi che sono stati ammessi a questo percorso di messa alla prova, in modo tale da stimolarne con attività che possano anche poi prolungarsi nel tempo ed anche oltre la scadenza della pena, in una serie di attività nello specifico del recupero del patrimonio ambientale, nel recupero del demanio marittimo, nella prevenzione degli incendi. Quante persone potenzialmente sono coinvolte? Parlo delle persone condannate. Dunque, le dico subito, con specifico riferimento a questo protocollo, al momento Lega Ambiente ha manifestato proprio posti concreti per l'inserimento su 8 sedi, ed in particolare Roma, Pescara, Potenza, Napoli, Palermo, Firenze e Perugia. Però naturalmente questo quadro più complessivo è destinato in tempi brevi. È un inizio, quindi. Sull'intero. Esatto, esatto, è un inizio. Ma uno per sede, oppure tutte queste 8 sedi sono disponibili e accoglieranno più di una persona? No, accoglieranno certamente più di una persona. Per esempio a Roma ci sono già 2 sedi che si sono dichiarate disponibili, e per disponibili si intende che hanno già una disponibilità di posti da mettere a disposizione per lo svolgimento di questi lavori di pubblica utilità. A che tipo di reati, di condanne, se esiste una casistica di questo tipo, oppure se si estende a tutti i reati che hanno una pena inferiore a, si può applicare questo tipo di percorsi? Perfetto, ci riferiamo nello specifico per questo tipo di accordo all'articolo 168 bis del codice penale, ed abbiamo la possibilità, su richiesta dell'imputato per reati puniti con una pena edittale non superiore ai 4 anni, la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento per disporre la messa alla prova, il cui esito felice estingue il reato per il quale si procede. Ecco, lei che avrà in mano una casistica ampia per quanto riguarda la giustizia minorile, ma forse anche più in generale, è vero che, diciamo, i numeri, le statistiche ci confortano da questo punto di vista? Cioè, le persone, i ragazzi in questo caso, che affrontano la loro pena per in qualche modo pagare l'errore che hanno commesso nella loro vita, ma che lo fanno con questi percorsi di lavori socialmente utili o di riti alternativi, hanno una probabilità minore, spesso molto molto minore, di tornare a commettere reati. Questo è un fatto importante, quindi, non solo per loro, ma anche proprio per la società che li accoglie, per tutti noi. Assolutamente sì, questo glielo confermo senza alcun dubbio, e le preciso che in realtà questo istituto della messa alla prova, che nasce nel 1988 per i minori e specificamente solo per i minori, nel 2014 è stato appunto esteso anche agli imputati maggiorenni, che pertanto godono della possibilità di questo percorso di messa alla prova, e sono nello specifico quelli maggiormente coinvolti da questi protocolli che prevedono il segmento del lavoro socialmente utile e di pubblica utilità unitamente a percorsi di volontariato. Ecco, molti si domanderanno, ma questi lavori che vengono fatti, intanto che tipo di lavori sono? Lei in qualche modo ha già fatto degli esempi, e poi so che gli accordi fatti al Ministero della Giustizia non sono solo con Lega Ambiente, ma anche con altre associazioni, lei lo ricordava, che si occupano della cittadinanza, comunque della tutela del patrimonio, eccetera, eccetera. Che tipo di lavori? Dunque, la domanda è poi la curiosità, ma sono lavori che sono retribuiti o che non sono retribuiti? Non sono retribuiti perché hanno naturalmente comunque una cifra riparativa e risarcitoria nei confronti della collettività. Ecco, che cosa si può dire a chi invece spesso in circostanze di questo genere invece dice no, ma il lavoro deve essere sempre retribuito? Io le faccio la premessa, io personalmente non mi allineo, diciamo, a questa casistica, per quello che conta le proprio le faccio la domanda col cuore in mano, no? Cosa risponde a questo? Io le rispondo che il messaggio è proprio quello che, essendo una prestazione non retribuita, è una prestazione risarcitoria. Quindi naturalmente il rendersi disponibili, la premessa è proprio in quell'inciso su richiesta dell'imputato, quindi l'imputato chiede, consente di essere ammesso a questo percorso di messa alla prova, mi perdoni la tautologia, proprio perché intende con la sua attività in qualche modo risarcire il momento di violazione del patto sociale che è stato determinato, chiaro, dalla violazione, no, della norma. È molto chiaro ed è bello appunto che siano loro a fare richiesta. Ho letto una sua bella affermazione che diceva: non solo lavori utili alla società, ma anche per sviluppare il senso di appartenenza al paese. E questo mi sembra un po' il cuore di questa vicenda. Quindi non semplicemente fare un lavoro al posto di qualcun altro, ma il fatto di fare un lavoro per cui ti rinnamori forse del tuo paese. Quali sono questi lavori che ci danno più senso d'appartenenza? Le dico, e questa è una cosa nella quale, indipendentemente dal mio ruolo specifico, è una cosa alla quale io tengo particolarmente, è proprio il riavvicinare ciascuna persona alla propria terra, e per terra io intendo diciamo rinnamorarsi anche degli ambienti nei quali si torna a vivere, e quindi, come le dicevo, la protezione della flora e della fauna, la manutenzione di immobili e servizi pubblici, inclusi altresì ospedali, case di cura, parchi, giardini, perché tutti un po' noi siamo spesso troppo distratti rispetto a quanto sia importante poi vivere in un contesto ambientale che non solo sia in assoluto accogliente, ma sia rispondente. Perfetto. Alle potenzialità. Quindi quando Gemma Tuccillo, il capo del Dipartimento di Giustizia Minorile al Ministero della Giustizia, dice rinnamorarsi della propria terra, intende proprio anche concretamente quella dove ci sono i pomodori, terra, il terreno. Grazie, grazie mille per essere stata con noi. E in effetti questo ci fa ricordare anche i casi in cui, per esempio, nelle scuole adesso va di moda, no? Anziché la sospensione, ti mandano a zappare la terra, a zappare l'orto, e andiamo così. Secondo me andiamo bene, però staremo a vedere. Intanto i numeri però ci dicono che si compiono reati di meno quando, passando dal carcere, si esce con questi progetti. Certo. E questo è importante. Giancarlo, da Roma, benvenuto. Sì, buongiorno. Vai. Buongiorno. Senta, volevo rispondere al personaggio della settimana. Sì. Prego. Secondo me è Sinisa Mihajlovic. Perché? Velocemente? Perché lui più volte ha sottolineato l'orgoglio serbo e, sì, e ha risposto a chi chiedeva di Anna Frank di non conoscerla. Questo non lo sapevo, che Mihajlovic avesse detto questo, non lo sapevo. E quindi, no, un po' di punti in meno per Mihajlovic. E quindi, no, nel senso di non conoscerla. Niente, per lui è il personaggio per questi motivi, ma non era Mihajlovic. No, ma mi chiedevo se era il motivo dell'orgoglio, il fatto di non conoscere Anna Frank. Comunque non era il personaggio che abbiamo scelto. No, l'orgoglio serbo in questo caso, era l'indizio era su quello, però eravamo proprio lontani. Lilli da Arezzo. Vai, Lilli. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo anche io intervenire sul personaggio. Sì. Per me è Carolina Kostner. Perché? perché con orgoglio si è ripresentata sulla scena internazionale, ha partecipato a una gara importante di pattinaggio in Russia e ha vinto un premio. Ah, questa settimana? Straordinario. Mi sembra il 21, sì. Dalla mia impreparazione sull'argomento cose, forse lì gli avrei dedotto che non avevamo scelto lei come personaggio, orgogliosa e sportiva. Comunque grazie per averci chiamato. Chiudiamo con Carlo velocemente prima di andare sul traffico. Vai, certo, Carlo. Sono io, pronto. No, sono il tuo nomino. Chiedo scusa, prego. E chiami da Perugia. Sì, esattamente, però io non volevo intervenire sul personaggio, ma sulla caccia. Dici tutto. Perché sei, esatto, un cacciatore? Allora, esattamente, ex cacciatore per motivi di lavoro, perché c'ho un'azienda agricola e quindi ormai non ho più tempo di andare a caccia. Ma voi non dovete fare l'errore di ricollegare il discorso della caccia solo allo sparo, perché lo sparo è l'ultimo e non essenziale episodio della caccia. Io mi ricordo da bambino. Essenziale no, ma esiziale sì, essenziale. Per chi ci rimane secco, questo diciamo. Sì, assolutamente, però anche il discorso della gestione, ci sono alcuni animali, sì, a parte della fauna, che va gestita e noi impariamo dalla Svizzera e dall'Austria, caprioli, qua io chiamo da Perugia, vanno gestiti cinghiali, e questo è il futuro del cacciatore, che è gestire il territorio. Cioè che c'è anche un'utilità, stiamo dicendo, giustamente. Assolutamente, no? Altra cosa fondamentale è il contatto con la natura, è l'attesa, è l'emozione. Io andavo a caccia con mio papà da bambino, sì, la mattina, cioè la notte, io non dormivo dall'emozione. Questa, cacciatori, ricordatevi che si nasce. Chi diventa cacciatore oltre i 20-30 anni non è cacciatore vero. Cacciatore è una cosa che si tramanda di famiglia, è tutto il contesto, è l'emozione, l'attesa, il contatto con la natura che noi stiamo perdendo. Ecco, e secondo Carlo, me io volevo proprio questo, quello, stamattina, volevo proprio qualcuno che ci chiamasse anche con questa passione da parte tua che si sente per, perché giustamente non è semplicemente capire, perché sennò è impossibile capirla e comprenderla se si pensa che sia semplicemente per mangiare o per andare a trovare della carne, che è ovvio, no? Allora uno risponde e dice ma ci sono i supermercati, invece giustamente è un'altra cosa. E a noi servivano delle telefonate, sì, così, cari, grazie, ascoltatori, controllori dei fatti, anche oggi vi siete confermati in pieno nel vostro ruolo. Ringrazio il mio omonimo. Il tuo omonimo, insomma, però partendo, anzi, da questo, io sono il suo omonimo. Dobbiamo trovare poi un modo per migliorare le regole della caccia, riformarla, perché non possiamo arrivare alla fine della stagione con, come è successo l'anno scorso, più di 30 vittime. Questo possiamo evitarlo. Traffico. Si può fare. Allora, questa è una storia che più si può fare di così non esiste, perché tutto nasce da un signore che nella vita fa il pasticcere, ha una pasticceria, e nel 2009 ha denunciato quelli che gli chiedevano il pizzo, i camorristi che gli chiedevano il pizzo, ha fatto arrestare 7 persone. Da allora, fortunatamente, non come succede altre volte, la sua attività è andata avanti, ha trovato il modo, come tanti altri come lui, di andare avanti, e recentemente addirittura è diventato il campione del mondo con la nazionale italiana di pasticceri, gelatai e il pasticcere più bravo del mondo. Pasticcere più bravo del mondo è Matteo Cutolo. Buongiorno a tutti. Un si può fare così non lo trovavamo da un bel po', una storia a lieto fine. Però poi la domenica. L'ideale è chiudere con un pasticcere, cioè un è proprio pasticcere. Perfetto. Adesso ci farai sognare, ci racconterai la ricetta con cui hai vinto. Però stai lavorando, immaginiamo. Assolutamente sì, mi trovo in laboratorio in questo momento. Certo, domenica. Preparando che cosa? Che cosa? Preparando che cosa? Creme, ma stavo infornando le sfogliatelle e c'ho una torta chantilly e fragoline per le mani. Oddio mio, vabbè, cioè, proprio che... Speravamo del panettone, ma giustamente tu sei a Ercolano e noi siamo a Milano. A Ercolano, sì, però iniziamo un po' più avanti. Matteo, giusto, ricordiamo che la tua storia ha avuto quel momento cupo, quel momento critico che sei riuscito a superare. Grazie. Ti sei riuscito a trasformare in un momento straordinario. Sì, assolutamente. Io, come detto, diciamo, nel 2009 ho denunciato, 22 dicembre. Agli inizi di gennaio le persone che avevo denunciato già furono arrestate. Diciamo che tra l'altro la mia fortuna è stata che comunque in quel periodo fummo 42 commercianti ad Ercolano a denunciare. Il maxi processo che si fece, eravamo 42 commercianti contro 40 estorsori, cioè mai successo in Italia. Quindi, come si dice, una vera svolta. E comunque sempre date particolari ti scegli, perché per un pasticcere il 22 dicembre non deve essere una data semplice. Assolutamente no, per me è il giorno delle cazzate, io faccio solo torte in quel giorno, quindi la ricorderò a vita. Assolutamente. Bello, molto bello questa storia. Ma e com'è, non so se c'è il tempo, ma com'è il fatto che tu pagavi il pizzo doppio perché avevi una pasticceria in mezzo dove due zone erano, dove due famiglie rivali erano contigue? Bravo, perché all'epoca c'era la guerra di Camorra a Ercolano, quindi io demarcavo proprio la linea di confine e essendo il confine ne approfittavano entrambi, quindi passava sia l'uno che l'altra famiglia. Sì. Quindi, ma la vera domanda è: se avessi dovuto pagare solo una delle due famiglie, non avresti denunciato? No, assolutamente no. Diciamo, sono stato messo in condizione anche grazie al dottor Paolo Filippelli della Procura di Napoli, grazie ai Carabinieri, cioè, di dare una svolta, e l'ho fatto semplicemente per dare un futuro migliore ai miei figli. Scherzavo. Senti, ovviamente, Matteo, complimenti, la tua specialità è che è una storia stupenda. È il gelato, vero? Sì, io la faccio gelatiere dal punto professionale, sì. Raccontaci com'è andata questi campionati del mondo di pasticceria a Milano. Ma guarda, un'emozione unica, noi eravamo in squadra, tre persone, c'era io, c'era Giuseppe Russi di La Terza, Enrico Casarano di Lecce, e ognuno di noi era impegnato a portare una scultura artistica e una degustazione. Quindi il mio compito, io ho fatto un'opera in pastiaggio, rappresentata ed ispirata al caffè, dove ho rappresentato un tavolino vintage, c'è una macchinetta classica italiana, c'è il macinino antico dove si raffinava il caffè, il tutto lo genere con tornato da qualche elemento della mia Napoli, quindi c'è una maschera di Pulcinella. Questa è la parte estetica, ma immaginiamo cosa potrebbe essere poi il sapore di tutto questo. Noi già sogniamo, in effetti l'ora c'è, perché questa è l'ora che si va al bar a prendere la pastarella, esatto, a Ercolano. Tutti da Matteo Cutolo, grazie per essere stato con noi, dobbiamo chiudere, grande abbraccio. Complimenti veramente per tutto. Nostra. Ciao. E abbiamo ancora però qualche secondo per chiudere, con tutta calma, con Daniele che ci chiama da Udine. Vai Daniele. Buongiorno Carlo, buongiorno Alessio. Buongiorno. Buondì. Allora, io volevo intervenire sul personaggio della settimana. Secondo me è il judoka israeliano che è andato a gareggiare in Arabia Saudita. Che cosa è successo? Praticamente, essendo arrivato primo nella sua categoria sul podio, non gli hanno messo l'inno nazionale, l'inno israeliano suo. E lui cosa fa? Se lo canta da solo. Eccolo qui Daniele, bravo, hai indovinato, era lui il nostro personaggio. Grazie. L'orgoglio di un atleta che si trova in una disputa più grande di lui, e gli Emirati che non riconoscono Israele, non gli mettono sull'inno, lo ha cantato lui. E va bene, questo era il nostro personaggio della settimana, però abbiamo finito il tempo, dobbiamo ringraziare oggi Alessandro Marco Tulli in assistenza in diretta, Andrea Roccabella in regia, ma come sempre un programma che realizziamo insieme a voi cari ascoltatori, e ad Andrea Piana, Claudio Schiattone. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. E a chi ci ascolta in podcast.